La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Buon sabato e buon cinema a tutti da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, il nostro appuntamento settimanale con tutto il cinema che c'è a partire da quello che c'è in sala nei cinema italiani. È una settimana di tantissime uscite dove langue un po' la qualità, a volerla dire tutta. Noi cercheremo di tirar fuori il meglio o comunque i film sui quali c'è davvero qualcosa da dire, ma come sempre non mancheremo di giocare insieme, di farvi vincere i migliori film della stagione in Blu-ray grazie al nostro quiz. Insomma, state con noi, preparatevi con il nostro indirizzo di posta elettronica la rosa purpurea @radio24.it e con la nostra pagina Facebook La Rosa Purpurea Radio 24. Come dicevo, settimana variegata. Vogliamo cominciare da un film che rappresenta, al di là dei suoi pregi e difetti, rappresenta un po' un unicum nel panorama cinematografico italiano. Un film d'animazione che mischia live action e animazione, che ha come sfondo uno scenario naturale straordinario come quello delle grotte di Frassassi, e infatti si intitola Grotto. Non ci possiamo dividere. E perché? Siamo una squadra, ognuno dipende dall'altro. Il mio piano era perfetto. Fermi, basta. Io non voglio rimanere qui dentro per sempre. Siamo un gruppo e dobbiamo rimanere uniti. È questa la nostra forza, giusto? Mi sa tanto che hai superato la prova. Sei dei nostri. E se ci fossero dei cavernicoli? Che cos'è quel coso? Magari uscito da qui lo trovano e lo tagliano a pezzettini per studiarlo. Va bene se ti chiamo Grotto. Oh, questi rumori strani che sentite non sono, come dire, provenienza gastrica, ma sono i suoni di questo mostriciattolo, chiamiamolo così, che questo gruppo di bambini che si vuole sottoporre a una prova di coraggio finisce per incontrare all'interno di questa grotta, e dovranno cementare la loro amicizia e cercare di fare anche amicizia col diverso, cioè in questo caso con un'entità che non è umana. È un'incursione del cinema italiano in un tipo di cinema che non ci è molto congeniale, quello appunto che dà, fatemi fare il nome di un maestro, lontano e assolutamente irraggiungibile come Spielberg con E.T., cerca di mettere insieme così appunto l'avventura di essere piccoli, di essere bambini, di avere 12, 10, 13 anni con l'incontro appunto con qualcosa che non è immediatamente spiegabile e categorizzabile con le normali appunto categorie. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Boris, dicevamo, Nicole Pallucca prova un tentativo non facile e anche abbastanza raro per il cinema italiano, questo tipo di film live action e animazione che ha bisogno anche di mezzi, ha bisogno di strutture, ha bisogno di un know-how che sicuramente in America hanno più di noi. Come è andata questa avventura e come trovi questo film? Ma è complicato da dire, nel senso che secondo me è un esperimento fallito, però c'è da fare una premessa secondo me fondamentale. Il cinema italiano sta cambiando testa, si è messo in testa che non c'è nulla che non possa fare. Se fosse questo un film di fantascienza che poi vince i David, un film sulle corse e tanti altri, insomma, che cominciano una commedia diversa, più graffiante, che può avere più successo di quelle, insomma, più rassicuranti. E Grotto si inserisce in questo filone, cioè si può raccontare un cinema per ragazzi con una tecnologia che di solito appaltiamo oltreoceano, con un'idea di cinema e di immaginario e anche di struttura narrativa che normalmente non pratichiamo, e ci possiamo provare. I premi e la storia di Grotto dicono che si può fare, visto che Ciffoni ha preso un riconoscimento, diciamo che di solito Ciffoni è una garanzia di qualità. Per quanto mi riguarda, io non sono così convinto perché non so se Nicole Pallucca si prende troppi rischi o se ne prende troppo pochi. Faccio un esempio: se avete la tentazione di storpiare il nome di Grotto facendolo diventare una flatulenza orale particolarmente fastidiosa, In questo caso non siete volgari, ma ci prendete, perché Grotto parla con i rutti, purtroppo, non posso dirla in altra maniera, insomma, cito Elio le storie tese. Un po' l'avevamo anche capito dal trailer, diciamo. Per scusarmi, esatto. E questo ovviamente ti porta verso una, diciamo, una comicità o un modo di esprimersi che è piuttosto facile, probabilmente anche diretto immediatamente ai bambini, perché è una comicità anche di quelle fisiche che inevitabilmente i bambini possono apprezzare più dei grandi. Siamo molto lontani dall'idea Pixar e anche dall'idea spielbergiana che i bambini sono degli adulti in miniatura anche nelle cose negative. Dall'altra parte c'è un'altra cosa che non sono più abituati a vedere, anche sempre molto infantile, per cui il bene sta tutto dalla parte dei bambini e il male sta tutto dalla parte degli adulti, che è abbastanza semplicistica come visione. E quello che io mi sto chiedendo a proposito di Grotto, è evidente che a me non possa piacere né come critico né come spettatore, perché è assolutamente lontano sia anagraficamente che esteticamente che come gusto rispetto a quello che posso apprezzare, anche se poi devo dire che l'aspetto grafico, anche la costruzione di questo mostro stalagmite rende bene l'idea. Forse è il tentativo però di cercare un genere, cioè quel genere 0-6 anni che è ad uso e consumo di quello pubblico là, per cui i genitori che li accompagnano sono destinati ad annoiarsi a morte, ma i bambini magari rideranno, certo, come pazzi. Certo. E allora Grotto è il primo film di cui vi abbiamo parlato in questa nostra puntata. Adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco facciamo un salto di qualità e anche di tenore cinematografico sicuramente importante, e sarà con noi Roberto Andò per raccontarci le confessioni. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci ancora alla Rosa Purpurea, la seconda parte del nostro programma. Come annunciato, ci dirigiamo su un cinema italiano, diciamo così, di quelli attesi, con un film come Le Confessioni, con Tony Servillo che ritorna sul grande schermo, ma anche con un cast importante che va da Pier Francesco Favino a Daniele Auteuil, da Lambert Wilson a Moritz Bleibtreu. Tanto bel cinema europeo per dare corpo a questa storia veramente molto particolare, che si svolge in un grande albergo in Germania, dove si sta per riunire un grande vertice di ministri dell'economia di tutta Europa, di tutto il mondo, che potrebbe avere conseguenze che non sono mai spiegate, non è quello l'importante, conseguenze molto, molto importanti e molto gravi per alcuni paesi. E in questo posto, in questo sorta di eremo, viene chiamato un frate, che è appunto Tony Servillo, che terrà una confessione che diventerà, oltre che l'oggetto del film e del titolo, anche l'oggetto di un'indagine per capire cosa sia successo di strano attorno a questa situazione, a questo castello in cui tutti questi potenti della terra si sono riuniti. Nessuno merita lodi per le sue buone azioni se non ha il coraggio di essere cattivo. Come possiamo essere sicuri che Rocher non gli abbia parlato della manovra? Evidentemente lei non si rende conto di cosa c'è in gioco qui. Penso che lei sia in pericolo, padre. Vorrei che lei mi confessasse. Allora, Roberto Andò in collegamento con noi, lo salutiamo, grazie per essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Grazie, buonasera. Allora Andò, è un film molto, molto curioso sotto il profilo del critico, perché chiaramente lo si approccia come veramente un unicum in un certo senso. Mi viene in mente la prima definizione, se dovessi così dirlo a un amico in poche parole: vai a vederlo perché è un film che ti racconta quanto i segreti dell'economia siano talmente pesanti e talmente invasivi che diventano materia scottante anche per farne un film praticamente giallo. È d'accordo? Si rivede in questa definizione? Beh sì, diciamo l'idea è poi di fare del cinema, quindi in effetti siamo partiti da una materia ma anche da alcuni personaggi, mettere insieme il mondo diciamo oggi più nel potere, diciamo, che è il mondo dell'economia, che è un mondo che non è mai stato eccessivamente interessato alla trasparenza, e un gruppo di persone che ospiti come accade, perché è un appiglio narrativo puramente realistico questo, cioè non è una invenzione. È accaduto molte volte di vedere ai G8 un Bono, un Bob Geldof, delle personalità della società dello spettacolo che per redimersi si occupano di paesi indebitati, no? E quindi l'appiglio è che fra questi c'è anche un monaco italiano che scrive dei libri, interpretato da Servillo. E però accade un fatto tragico la prima sera in cui questi ospiti arrivano. E intanto questo monaco viene, come dire, cercato e portato in una stanza dove c'è il direttore del Fondo Monetario Internazionale che vuole confessarsi. E l'indomani mattina quest'uomo viene trovato morto. E da qui parte il giallo, nel senso che da qui comincia una sfida tra questi uomini potenti e il monaco, che viene sospettato di sapere, di essere stato informato dal suicida di qualcosa che riguarda una decisione che stanno per prendere. E quello che è interessante è proprio quello che accade in queste stanze, che tipo di relazione si stabilisce fra questi uomini, il peso della decisione che avrebbero dovuto assumere e che non riescono più a sopportare, e le confessioni che via via si aprono tra loro. Ecco, effettivamente mi fa pensare a una cosa, cioè c'è anche una valutazione del livello ormai di chi rappresenta le economie del mondo. Cioè sembra quasi che questo bisogno di un guru, lei ha prima citato Bono, ma in questo caso Servillo, un monaco, qualcuno che venga dal mondo esterno, sia un po' il catalizzatore anche di insicurezze su come trattare la materia e su come salvare i paesi. L'abbiamo visto recentemente anche con le vicende della Grecia, sembrava che quasi nessuno sapesse che pesci pigliare. No, è proprio quello, il clima che stiamo vivendo, lei l'ha raccontato benissimo, è proprio quello. Cioè c'è stato un momento in cui era facile prendere decisioni, abbiamo assistito anche a un momento in cui le economie forti del mondo avevano una baldanza. Tutto questo oggi non c'è più, si sente un'incertezza e sente anche uno smarrimento. Ecco, quello che racconta il film è questi uomini potenti dentro lo smarrimento, diciamo al di là del fatto di sapere o meno qual è questa manovra, e sono i comportamenti quelli che mi interessava cogliere, che con Angelo Pasquini abbiamo cercato di raccontare nella sceneggiatura, in un giallo in cui c'è un uomo che è totalmente inerme, che è un monaco, cioè quindi una persona che non ha nulla a che fare con quel mondo, che si trova a essere testimone per caso e in qualche modo anche indiziato, e invece diventa il detonatore di un dubbio, ecco, è lui che fa scattare il dubbio in alcuni di loro, e quindi poi accade quello che accade, certo, nel film. E che noi ovviamente non raccontiamo. A livello di regia, puramente di regia, visto che lei usa le tonalità del giallo, il tipo anche di ripresa, il film ha per esempio questa cosa molto hitchcockiana, no? Alla fine del cerchio che si stringe intorno a un particolare, quali sono i suoi rapporti con questo genere, che ha dei codici ben precisi, e mi sembra che lei li abbia usati anche per esempio nell'uso della musica, per esempio, in questo film? Sì, no, ma è proprio un giallo, certo è un giallo anomalo, perché diciamo quest'uomo, che poi appunto non è un santo, è un monaco, è un uomo però sotto la tonaca, usa tutte le carte psicologiche per appunto dialogare con questi uomini di potere, anche il silenzio, e in realtà poi scopre, come dire, c'è una scoperta per lo spettatore, via via scopriamo poi qual è tutto il passaggio di questa lunga confessione di una notte, che è quello su cui lo interrogano i ministri, e scopriamo appunto ha a che fare con quello su cui poi gioca oggi l'economia, cioè investire in qualche modo come gioco, è un gioco di prestigio, ecco, cioè investire sul futuro anche con una formula vuota. Allora, da questo punto di vista il giallo è interessante, perché si trattava di raccontare un ambiente chiuso, un luogo chiuso, perché è un albergo che assomiglia molto anche a un sanatorio da un certo punto di vista, e raccontarlo quindi stando sempre un po' come dei voyeur, no? Dentro queste porte, e c'è quindi una tradizione c'è un personaggio che è il personaggio della scrittrice interpretato da Connie Mintz, che spia a sua volta il monaco, e quello che in qualche modo ce lo fa scoprire nel privato. Scopriamo che è un monaco anomalo che fuma, cioè che anche lui ha un suo mistero, e tutto si svolge in un'atmosfera in cui non si capisce bene qual è la colpa. Era questo quello che mi interessava, non mi interessava fare un giallo dove, diciamo, anche non è che stiamo qui a fare un film per scoprire qual è il crimine dell'economia, non c'è nessun, in fondo il personaggio più fascinoso del film per me è quello interpretato da Daniel Auteuil, cioè è proprio il cattivo del film. Ecco, le chiedo un'ultima cosa, tra l'Italia di Viva la Libertà, sì, e l'Europa delle confessioni, cosa le fa più paura? Ma guardi, io penso che in entrambi i film si racconta appunto un momento di smarrimento che oggi certo è arrivato molto oltre, cioè voglio dire, ora siamo con il terrorismo islamico, la Merkel ha aperto le frontiere, però tutto il resto d'Europa non sa, cioè il problema è questo, è un mondo in cui la politica ha arretrato definitivamente e nessuno si assume la responsabilità dei propri gesti. Da un certo punto di vista il mondo di oggi è ancora più terrorizzante di quello di ieri. Allora aspettavamo, Viva la Libertà si aspettava un gemello, si prospettava una speranza. Adesso qui la speranza è difficile da nominare, però io mi sono sentito in dovere, pur facendo un giallo, di spendere una parola a favore del bene, perché il tuo personaggio di Salus viene, arriva in questo posto e va via e vince una manche, e quindi in questo senso è come se io diciamo mi scommettessi sulla possibilità di una via d'uscita, anche perché questa Europa che noi continuiamo a chiamare non sappiamo cos'è. Ecco, questo film si occupa in un certo senso proprio di quello che è la malattia dell'Europa, e quell'albergo è un albergo di malati, sono gli uomini politici che non sono in grado di assumere una responsabilità che sia anche politica, non soltanto di conti. Roberto Andò, La Rosa Purpurea, e nei cinema italiani invece Le Confessioni con Tony Servillo. Grazie, a risentirci. Grazie tante. E allora, Le Confessioni con il regista Roberto Andò qui con noi alla Rosa Purpurea. Adesso, prima di dare la regia, giochiamo insieme, così cominciamo a entrare un po' nel clima del nostro film misterioso. Ascoltate questa traccia. Dov'è mio fratello? È una domanda che deve rimbalzare di casa in casa, di strada in strada, fino a entrare nei cuori dei peggiori figli di Caino. E allora, se avete capito di che film si tratta, scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, con il titolo del film, il vostro indirizzo, per provare a vincere una delle due copie di questo film in Blu-ray che sveleremo la prossima settimana, ma di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra breve clip. Invece, fra pochissimo, dopo aver dato la linea alla regia, staremo insieme per parlare di un altro dei film della settimana, forse uno dei migliori, si intitola Truman, un vero amico, è per sempre. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, e la terza parte del nostro programma comincia con un film di cui si è parlato molto in fase di avvicinamento alla sua uscita. È un film di produzione spagnola che è diretto da Cesc Gai. Si intitola Truman e racconta una storia piuttosto bizzarra dell'affetto fra un uomo e un cane. Quanti giorni ti fermi? 4. Abbiamo un po' di soldi, perché io sono proprio a secco. Possiamo fare quello che vuoi. Hai sentito, Truman? Ce la spasseremo noi tre. Io e te, Truman e io. Lo so che preferiva che venissi con mia cugina, dottore, che è molto più bella del mio amico, ma dato che è venuto a trovarmi, non potevo togliermelo dai piedi. In un colpo solo li abbiamo sentiti tutti, i protagonisti di questo film. Gli amici, Julian e Tomás, il cane, Truman e la malattia. Il malato è Julian, attore argentino trapiantato a Madrid, che ha deciso di non curare più un male che è incurabile. Thomas è venuto dal Canada a trovarlo per qualche giorno e sarà trascinato nella preparazione del dopo, una preparazione che è soprattutto per Truman, il cane, un bull mastiff. Ognuno muore come può, dice Julian, ma quello di cui vuole essere sicuro è un buon futuro per Truman, che considera come un figlio. Per lui cerca famiglie adottive, cui dice che sta partendo per un viaggio a cui il cane non può partecipare e chiede consigli al veterinario. Come pensi che un cane potrebbe prendere una perdita, un lutto? Se muore... Il padrone, per esempio, sì. Come si potrebbe aiutarlo? Beh, è come nel caso di un abbandono, no? L'animale soffre la perdita. Può essere che sia un po' assente, che presenti delle reazioni psicosomatiche, tipo problemi di digestione, una certa irritabilità nel comportamento. Sto cercando una famiglia che adotti Truman. Che ne pensi? Come potrebbe essere? Mi oriento su un modello come il mio, ossia un uomo solo? O lo cambio completamente, una famiglia con bambini, cose così. Il film, dice Sky, vincitore di 5 premi Goya, gli Oscar spagnoli, fra cui miglior film, regia e attori, è una storia di amicizia insieme, il racconto delicato della morte, come ci si congeda dalla vita, rimanendo quello che si è sempre stati, probabilmente, e condividendolo con le persone più care. Qual è la cosa tanto importante che tu hai imparato da me? Sentiamo. Che non chiedi mai niente in cambio. Julian è Ricardo Darín, visto nel film Il segreto dei tuoi occhi. Tomás è Javier Cámara, volto di tanto Almodóvar. Bravissimi. Sono protagonisti di una commedia con le situazioni assurde in cui ci si trova alla fine della vita, quando la gente non sa cosa dirti, quando ti incontra malato. Qui portati all'estremo da un uomo che va a scegliere la propria bara. Che la terra ti sia lieve, auguravano già gli antichi a chi termina la sua vita terrena. E forse lieve è l'aggettivo migliore per questa pellicola, che non filosofeggia mai e non cede all'emotività spicciola. Molto bello, mi piacciono lenti belli. Perché è un film vero. Affronta certe tematiche con un occhio che rispetto ad altri film non avevo visto. Ecco. Questi temi qui in maniera mi sembra molto delicata, ecco. E ha visto per noi Truman Chiara Pizzimenti che ce l'ha raccontato, avete sentito anche coi pareri del pubblico fuori dalla sala. Decisamente consigliato questo film, ma è arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda clip del nostro film misterioso di oggi. C'era una signora che aiutava mia madre con il bucato. Si chiamava Maria Concepción. Tanti anni fa, dall'altra parte del mondo, io la guardavo stendere i panni e lei mi raccontava le storie della guerra. Insomma, una storia di grande spessore umano, un film che, provo ad aiutarvi, fa parte dell'inizio di questa stagione cinematografica. Scriveteci alla Rosa Purpure, a @radio24.it, il titolo del film e il vostro indirizzo. Ci sono 2 Blu-ray di questo film che vi attendono fino alla prossima settimana, quando sveleremo i vincitori. È arrivato il momento di ritrovare Boris Sollazzo per parlare di un altro film di cui si è sentito parlare molto in fase di avvicinamento. È un periodo non facile per lo sport in generale, soprattutto per i rapporti tra la medicina e lo sport, per quello che riguarda tutto il capitolo doping, l'inquinamento della prestazione sportiva, ma anche per quanto riguarda la sicurezza, perché di questo si tratta, sempre di inquinamento. Lo racconta Peter Landsman in Zona d'ombra, una scomoda verità, sottotitolo italiano, con Will Smith protagonista assoluto e Alec Baldwin nel cast, per raccontare la parabola di un uomo che da solo ha combattuto contro un gigante, il gigante della NFL, della Federazione del Football Americano, per affermare il pericolo che stavano correndo i giocatori di football. Credo di aver trovato una malattia di cui nessuno si era mai accorto. Quelli usano la testa come un'arma. Devi continuare. Perché possa continuare, ne devono morire ancora. Purtroppo sta già succedendo. Famiglie che vengono distrutte continuamente. Siamo in guerra contro una delle più grandi corporation del mondo. Vendetti! Se continuate a rifiutare il mio lavoro, i vostri uomini continueranno a morire. Credo che diventerai un eroe americano. Ma non sono neanche americano. Ancora meglio. Boris, parliamo di questo Zona d'Ombra, perché mi sembra che ci siano, come dire, due anime in questo film. Una, quella della narrazione, del racconto, molto interessante, molto importante direi, di una buona prova di Will Smith nei panni di questo dottor Omalu, nigeriano d'origine, che è emigrato a Pittsburgh, non segue neanche il football, si trova di fronte, facendo lui l'anatomopatologo, si trova di fronte a un'autopsia da fare e mette in connessione le morti continue di ex giocatori di football tra i 40 e i 50 anni, dopo essere peraltro impazziti perché sentivano le voci, si davano colpi, si davano ferite e tagli. Ebbene, insomma, sicuramente la situazione non era normale, e lui la mette tutta insieme, la mette in fila e arriva a una conclusione importante che mette in crisi tutto il sistema del football. Questo è, secondo me, la cosa valida di questo film. Un po' meno valida mi pare la regia di Peter Landesman, che fa tutto questo mettendo semplicemente in fila i fatti e forse non dando alcun valore aggiunto a questa narrazione. L'impressione è che lui cerchi di perpetrare in regia l'estetica e la visione di Insider di Mann, e in scrittura di trovare nel raccontare Will Smith la ricerca della felicità. Il problema è che dei due film non riesce però a prendere l'anima, la forza, la potenza, anche la struttura, che era semplice ma allo stesso modo complessa. L'argomento è interessantissimo, l'argomento è pazzesco, un argomento che tra l'altro può essere traslato secondo me in tutti i pubblici, perché se appunto il football americano ha queste teste che vengono usate come armi e che poi impazziscono, il calcio ha il morbo di Lou Gehrig, quindi insomma le pesti, le malattie che potrebbero massacrare intere generazioni di sportivi sono un demone che va avanti da molto tempo e che riempiono il nostro immaginario, purtroppo, e non solo quello. E il problema appunto è che cinematograficamente il film invece non mi sembra minimamente all'altezza di questa straordinaria storia, che viene ben impersonata quando Will Smith, in una buona prova, non eccezionale, ma in una buona prova, porta avanti la sua battaglia e Landesman tira fuori forse l'unica idea di regia intelligente, cioè di raccontare il nemico colossale che è l'NFL attraverso lo stadio di Pittsburgh, che a suo modo pure è colossale e che rappresenta una città che ha enormemente investito, che è la città dove abita questo dottore nigeriano, che ha enormemente investito in questo sport e quindi che fa capire quanto sia difficile la battaglia di Omalu. Dall'altra parte è vero che è bravo Will Smith, ma il suo ruolo è appiattito su un buonismo e una retorica del self-made man che non gli dà profondità e quindi gli rende difficoltoso essere appunto all'altezza magari della ricerca della felicità o di altre interpretazioni molto migliori. È un film che aveva ottime premesse e ottime promesse, ma che mantiene pochino. Tra l'altro un film, lo ricordo, che ha un titolo originale che è Concussion, che vuol dire due cose in inglese: vuol dire concussione, cioè servirsi della propria posizione dominante per ottenere un risultato anche economico, e qui mi sembra chiaro il riferimento ai potenti, ma vuol dire anche commozione cerebrale, una di quelle parole inglesi che riescono, come dire, a dare due significati che sono tutti e due assolutamente presenti nel film. Assolutamente d'accordo, quella forse è l'intuizione migliore del film e noi non ce la godiamo, perché appunto diventa zona d'ombra. Quella concussion è un colpo, non è all'altezza di tutte le premesse, come abbiamo detto, titolo compreso. E allora, questo è Zona d'Ombra, una scomoda verità, il film con Will Smith in questa settimana abbastanza piena di cinema, ma non sempre di cinema straordinario. Un'occhiata alle classifiche, che secondo me rimarranno invariate almeno per quanto riguarda i leader, perché in Italia Il Libro della Giungla nel primo weekend ha portato a casa più di 3 milioni di euro e quindi, come dire, è partito fortissimo. Pensate che in America domestica nel primo weekend ne ha fatti 103 milioni di dollari, e quindi, come dire, c'è un dominatore in questo momento nei cinema di tutto il mondo. Per quanto riguarda la nostra classifica, secondo posto per Nonno Scatenato, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Zac Efron e Robert De Niro, con 851.000 euro, e via via gli altri: Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, Veloce come il Vento, che è andato piuttosto bene, insomma, ancora in questo weekend sta funzionando bene il passaparola, e ne sono molto felice per il film di Matteo Rovere. Esordio così così per Nemiche per la pelle di Luca Lucini, che era nostro ospite 7 giorni fa, ma anche, devo dire, per Hardcore, il film tutto girato con la GoPro, di cui si è parlato moltissimo sui giornali, ma evidentemente non ha convinto, anche a suon forse di un po' di mal di testa nel vedere i trailer, non ha convinto molto il pubblico italiano, che lo colloca al 7° posto. E allora diamo la linea alla regia con qualche istante d'anticipo, sentiamo come vanno le cose sulle strade, perché torniamo insieme, abbiamo un altro film di cui parlare, uno dei film più belli della settimana, si intitola Codice 999, e poi tutto il cinema da vedere in casa. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, ancora un film sul grande schermo, perché c'è un film di cui vogliamo parlarvi, magari finisce per essere nel suo spirito d'azione forse uno dei film migliori della settimana. Si intitola Codice 999, lo dirige John Hillcoat, e nel cast troviamo Casey Affleck e Chiwetel Ejiofor, uno degli attori di colore che si stanno maggiormente affermando nel firmamento hollywoodiano. Sentiamo la clip e ne parliamo. Abbiamo a che fare con dei professionisti, 4 uomini. È la prima volta? Non è divertente, eh? L'anticrimine dirigerà le indagini. Belmont, tu sei con Chris. Capo, ne possiamo parlare? Scordatelo. Non credevo ce l'avreste fatta. Ci serve un diversivo. Un codice 999. Un triplo 9, che cos'è? Quando ammazzi uno sbirro, ogni poliziotto della città deve andare sul posto. Devi essere più criminale dei criminali. Dai, muoviti! Per salvarti la pelle. Non c'è limite a quello che può fare un uomo quando non ha scelta. Insomma, avete sentito, gli ingredienti sono quelli proprio del poliziesco classico. Infatti racconta proprio di questo gruppo di poliziotti corrotti sotto il giogo della mafia russa, e a un certo punto gli agenti capiscono che l'unico modo per mettere a segno questo colpo è causare un 999, un 999, che è il codice appunto che viene usato dalla polizia per segnalare che un agente è stato colpito in azione. A quel punto questo focalizzerà tutte le forze di polizia della città sullo stesso posto. Dicevamo, dirige John Hillcoat, Boris, che è un regista piuttosto interessante, che forse non ha proprio azzeccato, diciamo, sempre tutto, ma che ha fatto sempre tutto con una visione di cinema molto forte, dalla proposta che forse ricorderete a The Road, da Lawless a questo Codice 999. Sì, io devo dire che l'ho apprezzati tutti questi film, probabilmente non hanno avuto la risposta di pubblico tutti come meritavano, però è davvero un cineasta con una, come dicevi tu, con una chiarissima idea di cinema, di visione, anche secondo me con una morale ferrea all'interno delle sue storie, che non ha però nessun moralismo, cioè sa costruire degli impianti morali molto forti secondo cui fa andare i suoi personaggi, veramente costruisce dei mondi ed è uno dei pochi in questo momento. Qui ha anche la fortuna di avere uno sceneggiatore straordinario che costruisce dialoghi e scene in maniera mirabile, che è Matt Cook, e ha un cast impressionante. Quello che avete capito è che c'è un colpo da fare, io cerco di raccontare il meno possibile, c'è un colpo da fare, il colpo non è molto difficile, è molto difficile cercare di mettere su le poche premesse importanti perché riesca, una di queste è appunto il codice 999, come raccontavi. C'è un alla Grey, diciamo, un mondo molto chiaro, fatto da una mafia russo-israeliana, fatto da dei poliziotti corrotti, il bene e il male esistono, e però qua semplicemente l'impressione che ci sia il male e il meno peggio, probabilmente perché la potenza di Hillcoat è dimostrarci la medaglia peggiore di tutti, di buoni e cattivi. Straordinaria Kate Winslet, che è una donna di mafia pazzesca, se pensate che fra qualche settimana uscirà The Dressmaker, e poi vederla invece in questo film vi stranierà, vi farà capire che incredibile attrice lei sia, perché veramente ha tutti i registri e tutti i colori nella sua tavolozza recitativa. Bravissimo Woody Harrelson, che racconta forse l'unico personaggio positivo, ma è un personaggio completamente marcio, non è corrotto, ma che la vita ha devastato, che è l'unico forse che porta un po' di ironia. Cioè, ha solo un difetto, Codice 999, che inspiegabilmente non prende la scelta di durare 90 o 100 minuti, ma 120, e questo lo porta ad allungare anche con un po' di autocompiacimento il finale, togliendogli quel ritmo serrato che ha avuto fino a quel momento, quel miscuglio di generi che non ti lascia fiato, e anche quella capacità che ha, soprattutto all'inizio, di creare attenzione senza farti capire bene che cosa sta succedendo, e quindi di farti entrare all'interno del film con un coinvolgimento totale. Lì un po' lo perdi, e davvero non si capisce il motivo per cui si voglia arrivare per forza alle due ore e non si scelga invece di andare un po' di più. In quel momento sarebbe stato perfetto. Comunque è uno dei film di genere di Hillcourt più interessanti, e sicuramente uno dei migliori film delle ultime settimane. E allora bravo questo regista australiano, insomma, che sta facendosi largo a colpi di buoni film di genere, come dicevi tu, un cast assolutamente altisonante, perché Woody Harrelson, Kate Winslet, Aaron Paul, c'è davvero un Gal Gadot, che è uno dei volti, insomma, più interessanti a livello al femminile per quanto riguarda l'ultimo periodo, tra l'altro la Wonder Woman del Batman vs Superman, che è ancora nei cinema, quindi insomma c'è davvero tanta carne al fuoco. Boris, io ti ringrazio, ti saluto e ti do appuntamento alla prossima settimana qui alla Rosa Purpurea. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, dopo tanto cinema da vedere sul grande schermo, anche la prossima settimana sarà bella densa, con circa una dozzina di film nuovi che arrivano in sala, insomma, però forse anche con qualche cosa di più atteso, in attesa del prossimo blockbuster vero, che sarà Captain America Civil War il 5 maggio. È arrivato il momento di concentrarci invece sul cinema da vedere in casa, e lo facciamo come sempre partendo dalla soluzione del game della scorsa settimana. Io l'ho osservata e lei ha osservato me. Mi creda, la partita volge al termine. E allora, la partita volge al termine, in effetti la partita volgeva al termine per una delle saghe più amate dell'ultimo periodo, degli ultimi anni. Stiamo parlando di Hunger Games, questo era Il Canto della Rivolta, parte seconda, diretto da Francis Lawrence, film del 2015 che, come dire, ha chiuso il cerchio attorno ai film tratti dai romanzi di Susan Collins, di fantascienza distopica, con diciamo l'affermazione di una Jennifer Lawrence che è partita all'inizio di questi film, che era una ragazzina, era un'attrice che avevamo scoperto da poco con Un gelido inverno, ma che vedevamo per la prima volta alle prese con un film di grande produzione. L'abbiamo trovata alla fine della saga una vera star a livello mondiale. È interessante anche questo passaggio che ha contrassegnato la saga di Hunger Games. Ebbene, i più bravi e veloci sono stati Alessandro Faralla di Ancona e Agostino De Luca di Trieste. Saranno loro a ricevere la copia in Blu-ray di questo film, che ci facciamo raccontare con tutti i suoi contenuti speciali dagli amici di Film TV. È con noi come sempre Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo dello scontro finale tra i ribelli del distretto 13, capitanati da Katniss e il perfido presidente Snow. È, come dicevi appunto, l'episodio finale della saga Young Adult, che mette in scena un mondo distopico in cui l'umanità è ridotta allo stato di concorrente in un gioco mortale. Gli Hunger Games qui sono finiti, ovviamente, e finisce anche quello in cui sono sfociati, ovvero la guerra. Il finale, tra l'altro, di questa saga, non lo spoileriamo, ma è decisamente amaro. Il Blu-ray restituisce veramente tutta la potenza panoramica delle scene, mentre l'audio Dolby Atmos risulta masterizzato con un eccellente bilanciamento sia in lingua originale che in italiano. Quindi l'apparato tecnico assolutamente di primo rilievo. I punti di diamante sono gli extra. C'è il commento al regista Francis Lawrence e alla produttrice Nina Jacobson, documentario in 8 parti sulla realizzazione del film, bozzetti, mostre e un viaggio fotografico all'interno della saga. E questo per quel che concerne il DVD Game della scorsa settimana. Giulio, diamo un'occhiata come sempre ai palinsesti televisivi. invece della prossima, a partire da lunedì 25 aprile, quando a 00:50 su Rete 4 passerà Carnage di Roman Polanski. Se ne è parlato molto anche ultimamente, perché è diventato un genere quello di un gruppo di persone che si trovano attorno a un tavolo a fare una sorta di regolamento di conti. Pensate anche a Perfetti Sconosciuti, tanto per parlare dell'ultimo episodio italiano. Ma insomma, Carnage è in questo senso un film che ha contrassegnato questa nuova stagione cinematografica. Lo ricordo, film con Jodie Foster, Kate Winslet, ne abbiamo già parlato questa settimana, Christoph Waltz e John C. Reilly, che appunto si potrà vedere in televisione. Sì, è l'incontro tra due coppie che cominciano a conoscersi civilmente e finiscono per sbranarsi. È tratto dalla pièce teatrale Il Dio del Massacro di Yasmina Reza ed è veramente un furibondo e ispiratissimo Kammerspiel di 79 tesissimi minuti in cui Roman Polanski, il regista, il grande autore, tira fuori veramente il meglio di sé e soprattutto cattura la performance di quattro interpreti che sono appunto quelli che tu elencavi, che sono straordinari. Non è teatro filmato, ma è veramente puro cinema in 50 metri quadrati di spazio. Polanski, che tra l'altro esordì con un film girato su una barca, è capace veramente di realizzare un colossal disturbante in un portacenere. Ed è un film questo che ci fa veramente agghidare a pieni polmoni, nonostante sia rinchiuso in una stanza, che questo è un grande cinema. E questo per quel che concerne Carnage, lo ricordo, lunedì 25 aprile 00:50 Rete 4. Invece il 28 aprile, giovedì alle 23, su Paramount Channel, che è uno degli ultimi arrivati ma molto interessante fra i canali del digitale terrestre, c'è Il colpo di Heist di un maestro non solo della drammaturgia teatrale ma anche cinematografica come David Mamet. Sì, il protagonista è ripreso a volto scoperto da una telecamera durante una rapina, quindi in gergo criminale è bruciato. Vorrebbe fuggire lontano con la sua donna e vorrebbe la parte del bottino che gli spetta, ma il suo committente non lo paga se non esegue un colpo preventivato. È l'ennesimo scintillante film di David Mamet, grandissimo drammaturgo, ed è un funambolismo di false apparenze e scatole cinesi, dove veramente nulla è quello che sembra. Un esercizio di scrittura esaltante, tanto che verrebbe veramente voglia di appuntarsi i duelli verbali, le battute, l'abilità con cui Mamet rovescia il campo e la struttura di uno schema che è veramente intelligentissimo. Mamet è veramente una sorta di ingegnere meccanico del racconto ed è sostenuto qui da una performance di ottimi attori, Gene Hackman su tutti, impegnati nello spazio di un'inquadratura a dire una cosa e celarne sempre un'altra. Un grande film. E Il colpo di David Mamet allora è giovedì 28 aprile su Paramount Channel alle 23. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine allora della nostra puntata della Rosa Purpurea. Grazie per averci seguito. Rimanete in contatto con noi tutta la settimana con la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace, ogni giorno ci sono novità, video, pareri che aggiungiamo per arrivare al sabato successivo alle 18, sempre qui su Radio 24.